conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. La storia del nostro paese dall'Ottocento ai giorni nostri è anche la storia del lavoro, che non a caso compare nell'articolo 1 della nostra Costituzione, un valore che potremmo definire fondante dunque, una storia che accompagna le profonde trasformazioni che hanno accompagnato l'economia e la società italiana nel lungo percorso che ne ha segnato il passaggio, non privo di squilibri e contraddizioni, da una dimensione economica prevalentemente agricola alla società industriale. Pare dunque quanto mai opportuno proporvi una sorta di viaggio, una vera e propria storia del lavoro che parte dalla nascita della società industriale e dai suoi successivi sviluppi, dunque dal 1896 al 1945, e poi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fin quasi ai nostri giorni, passando attraverso il grande balzo degli anni 50, il boom economico, per arrivare fino alla globalizzazione, con tutti gli effetti che tali trasformazioni hanno avuto sulla qualità del lavoro e sugli effetti e sui livelli complessivi di occupazione del nostro paese. Un viaggio che vi accompagnerà per due puntate di questa trasmissione. Nostro prezioso compagno di viaggio è un libro, anzi due libri, curati da Stefano Musso, docente di storia contemporanea all'Università di Torino, pubblicati da Castelvecchi, dal titolo Il primo storia del lavoro in Italia, il Novecento, 1896-1945, Il lavoro nell'età industriale, il secondo Storia del lavoro in Italia, il Novecento, la ricostruzione, il miracolo economico, la globalizzazione. Buonasera professor Musso e benvenuto. Buonasera a lei. Il viaggio nel lavoro parte dalla storia sociale di braccianti, contadini, coltivatori, operai, impiegati, tecnici, imprenditori, uomini e donne, con le trasformazioni della composizione dei diversi gruppi e del loro peso nella società. Trasformazioni connesse ai movimenti migratori e ai processi di mobilità sociale. Poi è la volta della storia delle organizzazioni, delle culture che hanno espresso e la dialettica degli interessi per seguire la faticosa strada dell'integrazione tra forze e soggetti politico-sociali nella costruzione di regole contrattuali, diritti e leggi per il lavoro. Quella del Novecento è la storia del lavoro nel secolo dell'industria, che ha segnato un balzo in avanti nella storia d'Italia, riportando il paese al centro del mondo sviluppato dopo la crisi che a partire dal 500 l'aveva relegato alla periferia. Tra la fine dell'Ottocento e il 1945 si assiste dapprima al consolidarsi della rivoluzione industriale nel nord-ovest in età giolittiana, fino alla grande crisi del 1929-34, le chiusure protezionistiche e la riduzione del peso del commercio internazionale. Nella prima metà del secolo scorso, l'Italia compì un primo notevole tratto di cammino verso la società industriale, ma nel quadro di rilevanti squilibri territoriali, di persistente povertà diffusa in larghi strati della popolazione. Gran parte degli addetti era concentrata nel settore primario, l'agricoltura, che nel 1936 annoverava la metà della popolazione attiva, seguita a lunga distanza dall'industria, con il 27%, mentre i servizi erano relegati al terzo posto, con il 23%. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, alla mattina, appena alzata. Dunque, professor Musso, un lavoro frammentato in una società in transizione, potremmo definirla. Sì, senz'altro, una società con fortissime disomogeneità, che però riesce a vivere in alcune parti del paese, nel nord-ovest e a macchia di leopardo in alcune altre zone, uno sviluppo notevolmente accelerato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Grazie al fatto che l'Italia aveva già accumulato in precedenza una massa critica di risorse che la mettono in grado di collegarsi ad una fase espansiva dell'economia internazionale che inizia appunto nel 1896, da qui la scelta di una data un po' strana, no? Se non si tiene conto di questo fatto. E in quegli anni, tra l'altro, l'Italia poté godere anche di una nuova fonte di energia di grande importanza, l'energia idroelettrica, che non a caso venne chiamata il carbone bianco, che diede un contributo notevole alla capacità espansiva del paese. Bene, e veniamo anche alle condizioni di lavoro che trovano largo spazio nel primo volume che lei ha curato. Condizioni di lavoro che, come sappiamo, nell'Ottocento erano piuttosto precarie, ma anche da questo punto di vista la ricognizione che voi avete svolto nel libro mostra che accanto a questo ci sono grandi trasformazioni nel nostro paese, grandi squilibri che poi ci ritroviamo dietro nel nostro paese, non risolte per quanto riguarda poi le condizioni generali del lavoro. Sì, naturalmente diciamo che a fine Ottocento le condizioni dei primi operai industriali, per non parlare della povertà endemica nelle campagne, erano condizioni molto precarie, soprattutto perché per due motivi. Il primo è che mancava qualsiasi tipo di intervento pubblico a sostegno delle difficoltà che le classi lavoratrici potevano incontrare. Non esisteva nulla di ciò che noi oggi chiamiamo sistema di sicurezza sociale, nessuna assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, disoccupazione e così via, assistenza malattia, eccetera. E dall'altra si era in presenza di un'economia ancora gracile che non garantiva posti di lavoro stabile, per cui periodi di occupazione si alternavano periodi di disoccupazione, creando appunto una situazione di instabilità, precarietà, difficoltà per le famiglie ad arrivare alla fine del mese. Ed è anche per questo, professor Musso, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento le dinamiche del conflitto industriale fanno esplodere la cosiddetta questione sociale, con anche fortissime tensioni dal punto di vista della tenuta sociale del paese. Sì, le tensioni sono molto forti e in effetti sono state rubricate con questa espressione, la questione sociale, che una serie di riformatori cercano di affrontare proponendo degli interventi della mano pubblica in quella che non doveva più essere semplicemente la beneficenza delle opere pie, ma doveva essere un intervento coordinato dei poteri pubblici per alleviare le condizioni di insicurezza dei lavoratori. Ad esempio, la disoccupazione involontaria è stata scoperta da questi riformatori sociali alla fine dell'Ottocento, mentre in precedenza l'idea dominante sulla base delle teorie liberiste era che il disoccupato era sostanzialmente un fannullone che non aveva voglia di lavorare. Si comincia invece a scoprire l'esistenza di cicli nell'economia capitalistica che provocano fasi di rallentamento economico nelle quali si creano delle situazioni di disoccupazione per lavoratori onesti e laboriosi, diciamo. E quindi si comincia a proporre una serie di interventi per risolvere le questioni sociali e alleviare per tal via le tensioni sociali, i conflitti, il movimento degli scioperi che cresce drammaticamente in maniera molto accentuata tra fine Ottocento ed età giolittiana. Sono gli anni in cui si determina poi l'endemico problema che noi abbiamo riassunto con l'espressione questione meridionale, che non è ancora stata risolta, professore. Sì, la questione meridionale è uno degli aspetti più rilevanti degli squilibri che percorrono il paese. Devo dire però che agli osservatori sociali attenti a quell'epoca non fu tanto la questione meridionale ad emergere all'attenzione quanto appunto le difficoltà create a questi nuovi strati di lavoratori formalmente liberi, liberi di vendere la loro capacità di lavorare sul mercato del lavoro, ma di fatto condizionati da un apparato istituzionale e normativo che relegava il contratto di lavoro alla sfera puramente individuale e lo paragonava all'affitto di manodopera, era la locatio operarum, che, per cui come dire, il singolo lavoratore si trovava in una posizione molto, molto difficile nella contrattazione con il datore di lavoro, in quanto si trovava in una posizione di debolezza. Un'ultima riflessione, professore, su questa prima parte del nostro viaggio nel mondo del lavoro. Abbiamo ricordato che nel 1936 metà della popolazione attiva era sostanzialmente occupata ancora nel settore dell'agricoltura, quindi siamo ancora lontani a metà degli anni 30 e quindi ancora in epoca fascista da quello che poi sarà l'impetuoso sviluppo industriale degli anni 40 e 50. Sì, questo è il segno più evidente degli squilibri territoriali esistenti nel paese. L'Italia, con lo sforzo di produzione industriale compiuto durante la Prima Guerra Mondiale, arriva a collocarsi alla fine del conflitto grosso modo all'ottavo posto tra i paesi più industrializzati al mondo. E naturalmente questo fu possibile grazie a un drenaggio di risorse che fu operato dallo Stato a favore della produzione industriale negli anni appunto in cui era necessario sostenere lo sforzo bellico rifornendo l'esercito di tutto ciò di cui l'esercito aveva bisogno, dalle gallette per il rancio agli scarponi, alle divise, ai cannoni, alle munizioni. Però questo grande sforzo finì per accelerare ancora di più lo sviluppo in quelle aree del paese che già erano avanzate e a relegare in una situazione di ritardo le aree che già erano in precedenza in ritardo. Bene, ne riparleremo la prossima puntata. Intanto la salutiamo, professore, e le diamo appuntamento a sabato prossimo. Grazie ancora. Grazie, saluti a tutti quanti.